Merda, merda. Ma che cazzo? Ma manco un attimo di respiro. Benvenuti, episodio 98. Vai, dimmi. Allora, perché te li vuoi togliere questi due episodi, cazzo? No, in realtà non me li voglio togliere, era solo perché... Vabbè, e comunque, in realtà ho fatto una partenza molto brutta perché non ho gli appunti sotto. E, episodio 98, con me ci sono quelli della scorsa settimana, ora andiamo a vedere dove... Ah, ecco come si intitola il film. No, vabbè. Allora, stasera parliamo di un film scelto da Roberta, che è qui con noi, insieme a Jacopo e ciao. Andrea. Ciao! Ciao! E è un film un po' più recente di quello dell'anno scorso, ma comunque degli stessi anni. E dell'anno scorso sì... Vabbè, raga. Della scorso episodio, ma comunque degli stessi anni, perché in realtà non... Però è invecchiato meglio, perché ha una tecnica tutta particolare, di cui dopo Jacopo ci parlerà di brutto, in dettaglio. Come... Esatto, sì. Sì, io adesso sto applicando la teoria del norvegese, cioè bevo continuamente. E è un film del 2006, che è più una sorta di film d'animazione, no, in realtà non è un film d'animazione, ma quasi. E, un film di fantascienza, più o meno, nel senso che è di fantascienza, ed è un film tratto da un libro di Philip Dick, che si chiama uguale, mi sa, Scanner Darkly, sì. Un oscuro scrutare in italiano, tra l'altro tradotto in modo decente. Sì, è bella traduzione. Mantiene anche un po' di, come si chiama, di suono. Esatto, sì, cioè è fatta, finalmente è fatta bene. E, è un film appunto del 2006, perché ho detto che è un film d'animazione? Perché è girato con una tecnica molto particolare, che lo rende un cartone animato, che sembra un po' quei filtri che si usavano più o meno, nei cellulari vecchi, non so se ricordate, c'erano quei filtrini lì che dicevano cartone animato, tipo cartoon, e fumetto, forse era comic. E veniva fuori sta roba qua quando facevi le foto. E fatto un po' meglio, ovviamente, perché insomma c'è una produzione dietro, una regia, una fotografia, eccetera, eccetera. E la sceneggiatura è copiata, quindi non ne parliamo, ma il regista è dello sceneggiatore. Ah, ok, ne parliamo perché il regista è lo sceneggiatore. Ed è Richard Linklater, che è un... sempre un regista americano che ha fatto poco, ma ricordiamo per School of Rock, quindi in realtà quel esatto. Poco che ha fatto, insomma, se siete notevole. Boyhood, cos'è? Se siete sapio sessuali, Boyhood, perché è quel film girato in migliaia di anni con lo stesso attore che cresceva nel frattempo. School of Rock? No, Boyhood. Ah, per questo avete ripreso John Cusack prima. Okay. La resista al potentosi hai, Andrea. Allora, in realtà secondo me il merito delle traduzioni di questo film e il merito della trasposizione in italiano, che non si dice, la traduzione in italiano, e è dato dal fatto che è tratto dal libro, che il libro era tradotto con un traduttore vero, e quindi anche il titolo è stato tradotto da un traduttore vero. La droga di cui si parla è la sostanza M e non una lettera strana, perché sta per morte, e come in inglese è la sostanza D, che sta per death. E si parla di una droga, e in un futuro più o meno vicino, perché in realtà non è che ci sia un granché di futuristico. E c'è questa droga che appunto si chiama sostanza M, sostanza D o la lingua che volete, e che è super diffusa, non si sa per quale motivo, tra l'altro, visto che nel film non si capisce. E, tanto che i poliziotti sono costretti a fare operazioni sotto copertura per trovare i trafficanti di questa droga, che non si riesce a sconfiggere, a bloccare. E tant'è che appunto questi poliziotti sono costretti a vivere come se fossero dei drogati o spacciatori o quel che l'è, e quando tornano in centrale sono costretti a mettere una tuta, che è una sorta di tuta che gli fa appunto praticamente li nasconde le sembianze cambiando con soggetti casuali le loro sembianze, quindi non si capisce bene chi sono. È molto bello, tra l'altro, perché il cartone animato, cioè come è stato girato, rende questa roba molto figa. E così tra colleghi loro non sanno chi è chi e non hanno problemi di talpe o di corruzione, eccetera, eccetera, ma riescono più o meno a stare sotto copertura senza. Cioè, tra l'altro, è assurda sta cosa, è esattamente l'opposto di quello che viene fatto di solito. Sì, no, è bellissimo perché tra l'altro le tute non ti fanno capire se è una donna o un uomo quello che ci sta dentro, cioè ti camuffano pure la voce. Però è figo perché se ci fate caso in alcune scene per un attimo uno dei pezzi di facce, di corpo che si vedono sulla tuta sono quelli della persona sotto, se ci fate caso. Ah, quello non l'avevo notato, figo. Ma proprio brevemente, cioè tipo in una scena quando sono seduti si vede, ma proprio brevemente... Siamo un'allucinazione, però potrebbe essere un'allucinazione. Allora, la trama parla di un poliziotto che è... Il suo nome cos'è? Fred, il poliziotto? Qual è il nome da poliziotto? Bob? No, è Fred Bob, il poliziotto. Non è Bob. Bob Arctor è il nome, diciamo, sotto copertura. Okay, sì, Fred sì. È da poliziotto. E Fred è da poliziotto. Quindi questo Bob A. Arctor è un normale americano che vive la sua vita normale in una casa insieme ad altri drogati, e normale tra virgolette, però normale in questo mondo, diciamo, nel futuro. E però lui è anche un poliziotto sotto copertura, quindi deve anche al compito di diciamo trovare lo spacciatore o trovare se chi tra i suoi amici o chi vive con lui o insomma nel suo gruppo di drogati è spacciatore di sostanza M o è qualcuno, diciamo, ad alto rischio o queste cose qua. E il punto è che Bob è anche un drogato, perché per andare sotto copertura lui ha deciso di drogarsi di brutto. E quindi diciamo che questo film parla un po' di questo tizio che ricade nella tossicodipendenza e quindi... è più un percorso di lui che diventa sempre più fatto e perde il contatto con la realtà, anche perché appunto questa sostanza M ha come effetto collaterale, sostanza D o come cazzo volete vederlo, ha come effetto collaterale quello di tagliare diciamo di separare i due emisferi cerebrali e quindi diciamo causa distaccamento della realtà, non so come dire, cioè non si riesce più a capire che cosa è reale, che cosa non lo è, e se hanno sia allucinazioni, e non si riesce più a dare i nomi alle cose, queste robe qua, che poi immagino che siano effetti collaterali di altre droghe, cioè magari non così esagerati, ma esista come roba più o meno, cioè come tipo di sintomi. E basta, in realtà non dico nient'altro. L'unica cosa è che... Allora, ci sono due cose di questo film. Più di due in realtà. Allora, la prima è che il cast è abbastanza figo, perché il protagonista è Keanu Reeves e Winona Ryder è coprotagonista. È la donna di Keanu Reeves e unica donna, tra l'altro, in scena. C'è Robert Downey Jr. C'è Robert Downey Jr., c'è Woody Harrelson e c'è Rory Cochrane. Cochrane, non so come si pronuncia. Cochrane. Forse, sì. Non ci sono praticamente altri attori, cioè quasi tutta la trama gira su di loro, che sono poi i drogati che si ritrovano, che vivono nella casa o comunque che sono collegati a gente che vive nella casa. E l'altra cosa che volevo dire è che è tratto da un libro di Dick, al contrario di molti altri film, perché ci sono 20 milioni di film tratti da libri di Dick, questo è abbastanza simile al romanzo. Sì, è praticamente identico. E questo rende la trama figa, cioè nel senso che... Allora, io poi ho un debole per Dick, quindi è detta così, I love Dick, salve. I love Dick, esatto. E per questo motivo sono sempre un po'... non so, cioè più che altro, cioè, diciamo che i suoi adattamenti per me sono sempre un po' il male, un po' come Andrea con La Torre Nera. Idris Elba. Esatto, bravo. Però in questo caso, visto che è molto simile, diciamo che mi è piaciuto parecchio. L'altra cosa è che se voi conoscete Dick sapete già come va a finire, o meglio non sapete come va a finire, ma è un po' l'effetto shamalamalamalamala. Cioè nel senso che sai già che ci sarà uno, due twistoni, uno, due straniamenti di... Sì, no, più che altro, cioè, capovolgimenti di prospettive... È Philip Dick, quindi è quello, cioè lo fa in tutti i libri, e riesce a sorprendere quasi sempre qua, un po', magari non troppo, però c'è questa roba qua ovviamente. E basta, l'altra cosa è che il cartone animato è molto fico perché rende quello che vedi sia strano e sia perché è fico ed è stato ancora, cioè è quello che era stato usato per, non so se avete mai visto, il cartone del Signore degli Anelli del 78. No. Oh mio Dio. È bellissimo. No, ed è così, c'è un live action ritoccato in digitale con questa roba qua. Che non so come si fa, non so come si chiama, però è molto carina da vedere. Magari dopo un po' rompe i coglioni, però insomma in questo film rende bene l'idea. E boh, poi ditemi voi magari. Andrea. Perché ti ha fatto schifo questo film? Non mi ha fatto schifo, cioè l'ho trovato un po' difficile da seguire, non lo so, un po' pesantuccio, a tratti noioso, anche se non lo so, devi farti di acido secondo me per vedere questo film, mi dispiace da quello che ho detto, però devi stare nello stesso stato in cui stanno loro per capire il film probabilmente. È vero. Non lo so, però vabbè, l'effetto, cioè come si è girato, tutto questo è fantastico. Secondo me comunque, cioè il fatto che si faccia fatica a capirlo soprattutto all'inizio è voluto, anche secondo me. Cioè, c'è poco da fare, non è che non lo capisci perché... Cioè, lui ha proprio scelto, sia Dick sia il regista qui, di non che poi tra l'altro Philip Dick lo fa sempre, sta roba qua. Cioè, quando tu cominci a leggere un suo libro, per le prime 20 pagine non capisci un cazzo, anche niente, 30, 40. È normale. Stronzo. No, ma a me piace quando è così, cioè mi piace quando una storia ti butta dentro, non ti prende per mano, non ti dice, ecco il Beniamino... Ecco lo spiegone di 40 minuti, sì, esatto. Per il mondo. Quindi... Cioè, no, anche a me, però in questo film è stato difficile, non lo so, mi è rimasto... Sì, no, è ingarbugliato anche perché all'inizio mi ricordo c'erano un sacco di tagli strani, roba che non c'è, non aveva tanto... Beh, tu cominci tanto... vedendo un tizio che ha, tipo, insetti che gli escono da ovunque. Sì, cioè, una serie... Poi quel personaggio... Che poi è una microzoopsia quella, verosimilmente, cioè un'allucinazione tipica sia dell'alcolismo che delle droghe, cioè non so, io mi sono fatta questa idea, però magari anche deformazione professionale, cioè non sono veri gli insetti, sono No, certo, sì, sì, certamente. Tra l'altro all'inizio, quando lui chiama Robert Downey Jr., che non mi ricordo più come si chiama il suo personaggio, e Robert James. Downey Jr. sembra addirittura, James, esatto, sembra addirittura uno psicologo, non sembra neanche un sì, tossico, esatto. Ci sembra uno psichiatra. E ma di anche fatto, come si pone sulla, sì, cioè la sua posizione sulla sedia, no? Esattamente, e questo non ti aiuta a capire che cazzo sta succedendo, perché dopo lo vedi che lui in realtà è un tossico. Perché era un tossico? Sì, sì, perché è Robert Downey Jr. in realtà poi... Ha deciso di drogarsi... per girare il film. Per questo film. Chiaro. Molto method actor, molto Jared Leto. Solo per questo film, Jacopo. Certo. A me questo film fa impazzire, ho detto anche Andrea prima, cioè forse ho un po' rovinato la visione di Andrea perché gliel'ho caricato un po' troppo, però no, a me questo film piace tantissimo. Vabbè, pure io come Salla, tenete conto che sono un fan di Dick. entrambi fan di... E anche ho letto il libro prima di guardare il film. Mi dispiace che una scena nel film non l'abbiano messa, nella versione che c'era nelle sale, che è una scena che a me è rimasta sempre impressa proprio a fuoco nella testa, che ogni tanto ci torno a pensare, in cui, vabbè, dico velocemente, c'è sta tizia che sta in casa con loro, che in realtà nel film non si vede mai, che gli dice: ah, venite su, salite in camera, entrano in camera e c'è una libellula. E loro ce la guardano come se fosse matta, gli fa: guarda, ma questa è una libellula, questa è, cioè, ti aiuta a ammazzare zanzare, è innocua. E lei gli risponde: se avessi saputo che era innocua l'avrei uccisa io stessa. Che è una frase che lì per lì, cioè, capisci il senso che ha, capisci perché l'ha detta, cioè, è spaventata da sto insetto enorme, ci può stare, però sia i personaggi sia io la citano spesso nel libro e anche nel film, quando in una scena con un tagliato, e mi è rimasto troppo impressa. Cioè, sto film è pieno di scene così che, se ti medesimi un attimo nei personaggi, nel motivo per cui sono estraniati o si drogano, se cioè, mi ha proprio colpito come un treno sia il libro che il film, perché anche nel libro c'è alla fine una dedica a tutti gli amici di Philip Dick che sono morti per la droga, perché ovviamente lui, sì, cioè... sì, questo libro poi è proprio per quello, e tra l'altro l'hanno anche messo nel film quella roba. Sì, esatto, l'hanno ricopiato proprio pari pari, sì. l'ultima dedica con tutti i nomi di queste persone vere che erano amici di Dick che sono morte per droga. Non so bene il periodo, cioè che droga era, non so, dico, qual era la droga, che non so se era il crack o qual era, però sì, cioè, è un film di cui lui so che era molto orgoglioso, perché anche lui, come te, Sal, era molto critico dei film che prendevano dai suoi libri. Beh, voglio dire, cioè, lui comunque lui ha scritto tantissima roba, molto corta, è vero, però ha scritto veramente tantissima roba, e l'hanno stuprato tutti, cioè l'hanno usato tutti. Sì, sì, sì. Però sono contento che questo film, cioè lui prima di morire, l'ha visto un po', perché quando è uscito lui era già morto, però prima che morisse un po' l'aveva visto. E gli era piaciuto, da quello che mi ricordo, e comunque anche alle figlie mi pare fosse piaciuto. Quindi, cioè, sono contento che almeno di questo film fosse un minimo contento. Anche perché, sì, prima era uscito, cioè, parliamo di Minority Report, che per l'amor di Dio può essere un bellissimo film, però non è. Però non Next è l'anno dopo, per farvi capire, è uscito Next. C'è quello di Nicolas Cage che vede il futuro, non so se avete presente. Che ha i capelli tipo a forma di aquila, sì sì sì, fantastico. Però sì, cioè, per quanto poi riguarda, secondo me, il modo in cui è stato girato, secondo me non esiste un altro film così. Cioè, hanno girato questo film dal vero e poi hanno speso una barca di soldi, sì, senza averne bisogno. Esatto, per disegnare sopra quella, no, bellissimo, la tecnica che si chiama rotoscoping. Sì, rotoscoping, che è quella che usavano per, consiste nel, no, nel filmare e poi nel ridisegnarlo, non so bene come, però ridisegnarlo sulla pellicola in un secondo momento. Se, cioè, tu ci passi sopra, no? Cioè, su Star Wars avevano il frame della spada laser che si muoveva e disegnavano sopra il laser, essenzialmente. Cioè, non so se tipo rifacevano impressionare sulla pellicola la luce. Ah, sì, è vero, se mi si fa pensare è lo stesso effetto. Che poi è proprio, va a pennello su tutto il mood del film, la sensazione del film, perché è ancora più straniante. Cioè, questa tecnica rende... Sì, esatto. Rende veramente un effetto che ti dà l'effetto come di una mente rallentata, non so come dire, di un ragionamento rallentato. E così... È come se fosse tutto in slow motion, no? Comunque un momento dopo. Come se ci fosse uno sfumato dietro. A me, cioè, forse la cosa che mi piaceva più in assoluto è veramente come è fatto il film, cioè questa, l'applicazione del rotoscoping, tant'è che poi mi sono incuriosita e sono andata a vedere un po' in cosa consistesse. E per il resto poi la storia di un'identità perduta, di un mondo perduto, perché si tratta di una realtà in cui il 30, 40, 50% delle persone fanno uso di droghe, quindi... Un po' distopica, ma un po' reale anche, un po' anche attuale. Cioè, tutto conclusionato, tutti i dialoghi sono sconclusionati, sembra un'eterna seduta psichiatrica, in effetti, dove... quello che si dicono tra loro è un po' filosofico, un po' sconclusionato, un po' paranoico, E quello che governa però è lo straniamento e anche la solitudine, cioè un grande senso di solitudine e di isolamento di ogni soggetto. Cioè, Poi non so se avete avuto. al solito se uno vuole anche, cioè se uno conosce un po' Dick alla fine, con anche il finale, c'è anche tutta la critica alla società. Che adesso secondo me è un po' troppo, cioè un po' troppo diretta. Cioè, secondo me va rivista adesso un po' meno diretta come collegamento. Non voglio spoilerare, però c'è un collegamento secondo me troppo diretto alla fine. Però è un sacco figo che questi qui sono nello stesso momento, cioè nella stessa, come posso dire, nello stesso contesto sono sia persone disilluse. E diciamo che vedono oltre come posso dire, la promessa, no, americana, del sogno americano, la casa nei sobborghi, bla bla bla, sia completamente Dall'antifurto. antifurto, sì, tutte quelle cazzate lì, cioè lui che si... È come se a un certo punto lui in realtà si fosse svegliato e svegliandosi avesse deciso di sfasciarsi a merda, cioè praticamente è la sua, come posso dire, il suo arco è quello. Ed è Forse. bello che, forse, ed è bello che nel cercare di, come posso dire, di annullare il suo dolore e la sua, non so come chiamarlo, Rorvacui, non so come, bene come descrivere quella scena, finisca per, non posso dirlo perché sono spoiler. Eh sì, Però anche perché come tutte le robe di Dick è abbastanza importante il finale. non lo so, cioè a me veramente il No, libro sì, è è molto bello. caro. Vabbè, sì, no, è notevole come. Però c'è un grande senso di oppressione in tutto il film, cioè di isolamento e oppressione, tanto, tanto, tanto, e c'è un pessimismo Anche perché poi tu lo vedi che dilagante. lui si sta rovinando. Sì, cioè non c'è redenzione, non C'è c'è solo possibilità di declino. redenzione e di salvezza. E poi glielo dicono anche alla fine che insomma è permanente. Bene, che bel divertimento questo. Sì, Comunque no, in questo video, tra l'altro, Keanu Reeves, col fatto che è cioè monotono, che c'è solo un tono della voce, una faccia, dillo. eccetera, che non sa recitare, ho capito. Questo hai detto tu, non io. No, cioè, in questo film, secondo me, un po' come in John Wick, va un po' a suo favore, nel senso, ci sta per Bob Actor. Cioè, è un po'... Per me si è un po' fuso con quello che avevo letto io nel libro. E anche gli altri due, secondo me, cioè Woody Harrelson e Robert Downey Jr. Beh, sì, Robert sono. Downey Jr. è tipo lui. E Esatto, è se stesso. anche Woody Sì, Harrelson in realtà è bravo a fare questi personaggi. Poi è lui, vero, un tra po' il l'altro, è folle. molto bravo a fare proprio questo tipo di personaggio, il suo. E Winona Ryder è drogata, quindi ci sta. Winona Ryder, mi è dispiaciuto un po' che dopo questo film un po' è scomparsa. Fino a. Fino a Stranger Things. Bravo. Mi ha fatto un episodio di Stranger Things? Non mi Forse ne abbiamo ricordo. parlato brevemente, forse. In uno di quelli. Io mi aspettavo adesso il commento di Andrea che diceva basta Keanu Reeves. Basta Keanu Reeves. Grazie. Va bene, il prossimo episodio lo facciamo su Adams Ebler, nazisti Adam ebrei. Sebler. Nazisti ebrei con Mads. Con Mads Mikkelsen. Troppi film mancano di Mads Vabbè, io Mikkelsen. comunque, regà, aspetto ancora, se mai lo faranno, il film Subic, Madò! che era stato annunciato nel 70 e qualcosa, e non è mai stato fatto. È stato annunciato negli anni 90, non è mai stato fatto. È stato annunciato nel 2008, l'hanno anche venduto, ma non è mai stato fatto. Io me l'aspetto, sto cazzo di film Io Subic. ti giuro, non vedo l'ora che facciamo film su Ubik e in senso inverso. Cioè, io li sto aspettando da, non so, cioè da quando ho letto i libri. La fondazione, per fortuna, qualcosa esce, mo. La E per forza la fondazione seguo. esce, l'hanno ipata a bestia, quindi io mi aspetto una cosa bella. Tra l'altro c'ho qui Angela che mi guarda tipo, se non è una cosa bella, ti togli Apple TV Ragione, cazzo. Ha Grazie ragione. Andrea del Sarebbe un contributo. cazzo. No, Ted è Ted cosa? Ted Lasso, però. Ted Lasso, Mythic Quest. adesso è questo venerdì che voi, per voi è già passato, è uscito il film nuovo con Tom Holland, e, che è sempre dei fratelli Russo. Ah, Cherry? Sì, esatto, e le aspettative sono alte, anche se dal trailer non si capisce una sega. No, per me non sono alte in realtà, però... vabbè, vabbè, Tom Holland a me piace, cioè, comunque... mi guarda male, non posso dire. Va bene, in realtà mi sono un po' perso, volevate dire altro su questo film che in realtà è consigliato se non l'avete ancora visto, e dovete un po' sforzarvi all'inizio, perché appunto non è un film, cioè dovete arrendervi e dire non ho capito un cazzo e continuare a guardarlo. Mi piace, ti arrendi al... Sì, una giusta filosofia. Sì, per forza. È come quando cominci a vedere delle cose complicate, tipo Game of Thrones prima stagione, o leggi il libro meglio. Ma io per tipo due stagioni non mi ricordavo i nomi dei personaggi. Esatto, che non sai un cazzo, e qua è uguale. Cioè tu non devi capire una sega all'inizio. Anche perché lui appunto all'inizio... In realtà forse riguardandolo ha senso. Però all'inizio ti sembra che non abbia alcun senso, perché vedi sto tizio qua che si toglie il vestito e poi va a drogarsi. E niente. Va bene, niente. Grazie di averci seguito. E noi ci vediamo settimana prossima con un altro episodio di cui... che non, però non sappiamo su cosa, forse. O forse sì, non mi ricordo. E vabbè, sarà una sorpresa anche per me come questa volta. E niente, settimana prossima. Ciao, ciao, ciao, ciao a tutti.